situazione. Gods, Eminem e tutti i reghi in coalizione. Chi come noi mangia rap a colazione. Chi come noi porta avanti una passione. Funk, Euroman, produzione in espansione. Gods, Eminem e tutti i reghi in coalizione. Chi come noi mangia rap a colazione. Chi come noi porta avanti una passione. Porta avanti una passione, spingo in alto e più in alto. Amante del fracasso e pompo basso, su basso. Dragstop, nella mia camera legata al mic. Come uno skater alla tavola, slide pezzi fan, campione di back. Modifico col sample, l'accento, il tempo. Battiti al minuto non sopra il 100%, 100%. Di crescendo, cresciuto coi ragazzi che ancora porto dentro il petto. La bomba scoppia, 2 chili di esplosivo. 2 chili di... 2 chili di... La bomba scoppia, 2 chili di esplosivo. 2 chili di... 2 chili di... La bomba scoppia, 2 chili di esplosivo. 2 chili di... 2 chili di... La bomba scoppia, 2 chili di esplosivo. 2 chili di... 2 chili di... In espansione, Gods, Eminem e tutti i reghi in coalizione. Chi come noi mangia rap a colazione. Chi come noi porta avanti una passione. Funk, Euroman, produzione in espansione. Gods, Eminem e tutti i reghi in coalizione. Chi come noi mangia rap a colazione. Chi come noi porta avanti una passione. Un saluto ai compagni di gradini. Eravamo uomini, anche già da piccolini. Amanti dei casini, ognuno coi suoi fini. La saga ha avuto inizio ed ora è giusto che continui. Fedo, Fabio, BMK, Rioshi, mezzi cosci, cani doppi H. Cresciuti teste calde, evitando storie blande. In camera di Yulo si armano le bande. La bomba scoppia, 2 chili di esplosivo. 2 chili di...